ci sarà 25 o'clock. www.ondarossa.info è il nostro sito, utile anche per sentirci via streaming. Il telefono è lo 06 49 1750. Voglio ricordare che qui in radio da qualche giorno si può trovare la nostra più famosa autoproduzione, che è la Scarceranda relativa al 2020, quindi l'agenda con il quaderno annesso a 12 euro. Si può trovare per adesso in radio e pian pianino anche negli spazi giusti qui a Roma e non solo. Salutiamo Maya e Nicola Locci della Sardegna, Lucia Cagliazza, Lupsi in quel di Udine, Marco qui a Roma, Like Awake qui a Roma. Like Awake, valente musicista di area ambient. L'onnipresente Raffaele Pezzella in quel di Napoli, della Nespre Sounds Group e Label. Anche il medico della peste è Raffaella qui a Roma, e anche Federica in quel di Ravenna, se non ricordo male. Bene, dunque cominciamo con andarci ad ascoltare una recentissima uscita di un gruppo storico di area neoclassica e martial, che in passato abbiamo molto sentito qui in radio. È un po' di tempo che erano fermi. Sto parlando di In the Nursery dei gemelli Clive e Nigel Amberstone. E da poco è uscito questo album dal nome The Seashell and the Clergyman, un album che nasce come sonorizzazione dell'omonimo film del 1928, diretto da Germain Dulac, e che nasce anche da un'idea di Antonin Artaud, un film surrealista dell'epoca. E questa è proprio una vera e propria passione, quella di indenarsi, di andare un po' ad andare a proporre dei film con le loro musiche come accompagnamento. E dire accompagnamento ovviamente è molto riduttivo. Allora, ci ascoltiamo le prime tre tracce: Glass Shards, Castor e Object of Desire. We'll be right back. Direi un buon ritorno a questo di In the Nursery con Dizzy Shell and the Clergyman, un disco che nasce come scrittura riferita a questo film del 1928. L'esperimento della sonorizzazione è una arte che appassiona molto In the Nursery. Io stesso ho assistito qualche anno fa a un'ottima sonorizzazione di un film dedicato a Giovanna d'Arco, sempre degli anni 20, un commovente contributo di In the Nursery dal vivo. Il portato epico, neoclassico, marziale, a tratti anche potente di In the Nursery si adatta benissimo a tale scopo. Buonasera a Eloquence Recycle, del Recycle stessi, che abbiamo il piacere di gustarci il lunedì sera in sede Disorder. Io sono Etual da Milano, Fulvio Biondo di Solar Lodge qui da Roma, saluto di nuovo Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Pezzella sarà coinvolto, come spesso accade, in più frangenti, e cominciamo con il frangente riguardante Cordis Cinctis Serpente, il progetto di Giovanni Lisi, ristampato proprio da Raffaele Pezzella. Era una vecchia cassetta del 1989 che uscì attraverso la Minus Abens e quindi fortunatamente è stata messa su supporto digitale da Pezzella, proprio per festeggiare 30 anni da quella lontana uscita. E quindi ci ascoltiamo da questo primo lavoro di Cordis Cinctis Serpente, la traccia di chiusura dal nome PVN. Anzi no, è la seconda traccia, chiedo venia, Seven Chakras, Ten Sephiroth. Thank you. Seven Chakras, Ten Sephiroth, estratto da Cordis Cincti Serpente, il primo lavoro del 1989, ristampato dopo 30 anni anche grazie a Raffaele Pezzella, oltre che naturalmente a Mario Cardinale. Mario Cardinale della Industrial Holocaust Recordings, un album dai forti e morbosi e ritualistici tappeti evocativi, l'afflato catacombale che lo pervade in tutte le sei tracce. Giovanni Lisi alla voce anche in questa traccia che ci siamo ascoltati orora. Giovanni Lisi che salutiamo in quel di Bari. C'era anche la presenza di un altro personaggio importante, Ivan Iusco, lo ricordiamo sia come fondatore della Minus Abens ma anche come musicista, come Nightmare Lodge e It. Un album che quando si sente dona sempre nuove emozioni, tanta la profondità che è insita in esso. Intanto si saluta, buonasera Jean-Claude Aubertot dalla Val d'Aosta, Giovanni Campagna in quel di Copenaghen, anche lui grande musicista come Soundox 65 e Teschio. Insomma, un ottimo lavoro. Anche questa sera molta Italia avremo in programmazione e quindi passiamo alla nostra amica Lucia Cagliazza in Arte Lupsi. Questo invece è un album proprio di recentissima uscita. Si chiama Eden's Noise, che vede anche qui la collaborazione al suono di Raffaele Pezzella e la partecipazione al contrabbasso di Simone Serafini, che salutiamo. E quindi questa presenza direi è anche abbastanza importante, perché dà un'impronta vagamente jazz a tutto questo Eden's Noise, a questo secondo lavoro di Lupsi. Questa sera è il turno di Surrender e poi Under the Rain. Eden's Noise, scritto, ideato, suonato da Lucia Cagliazza come Lupsi e Simone Serafini. Un disco onirico, ma nel senso più spettrale del termine e del concetto, con questi reverberi chitarristici di Lucia, queste tastiere così inquiete e il contrabbasso di Simone Serafini. C'è del kraut rock, ma anche nel modo di suonare la chitarra mi sono venute in mente certe suggestioni dei primissimi Nars With Wound. Insomma, un album molto molto interessante, che vede coinvolto anche qui, come nel caso di Cordis Cincti, Serpente, dell'amico Raffaele Pezzella, che qui ha curato i suoni. Eden's Noise si può apprezzare con più calma nel profilo Bandcamp di Lupsi. È un consiglio che vi do caldamente. 11 ottime tracce. E mentre prove tecniche serve anche per, diciamo, come colonna sonora di un bagno ristoratore con una cara vecchia radio FM vicino, il che ci rende gioiosi, noi si va avanti con l'andare a ricordare ancora una volta, e giuro che è l'ultima, i Coil di John Balance e Peter Christofferson. Ma di novembre accade spesso di omaggiare questi artisti per me molto importanti. Questo ricordo stasera lo facciamo andandoci ad ascoltare due brani da Love Secret Domain, un album del 1991 che vedeva anche l'esordio nelle sonorità dei Coil, anche di suoni più vicini all'acid house, come andava a cavallo degli 80 e dei 90, e quindi i Coil in qualche modo ne rimasero coinvolti. Noi invece ci andiamo ad ascoltare due brani con la partecipazione anche di Mark Almond in Titan Hark e il successivo sperimentale Chaostrophe con l'orchestra arrangiata da Billy McGee. Eccoli qua i Coil, dunque, da Love's Secret Domain. Soviet Union.